piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. A volte nelle sfilate mi annoio perché tipo mi dicono no, non puoi sorridere mentre vai in passerella, devi stare dritta con le spalle. Io sono invidiosa di alcune mie amiche che sono famose, perché sono famose e io no. Io voglio essere famosa. L'ho già accennato nel giornale radio, c'è una notizia delle tante che vengono dalla Cina. La Cina è un serbatoio fantastico di notizie, a volte drammatiche, a volte paradossali, a volte curiose, a volte improbabili. Questa in realtà è molto probabile. Parla di una modella russa di 14 anni, Vlada di Ziuba, non so se si pronuncia così esattamente, comunque aveva 14 anni, era una modella, era stata in passerella per 13 ore consecutive e alla fine è morta per il troppo sforzo. Voi direte, una cosa successa in Cina, un paese lontano, si sa, i diritti umani, è qualcosa di improbabile. Nulla del genere può succedere dalle nostre parti. Sì, probabilmente dalle nostre parti. Nessuna 14enne è morta sulla passerella, però sta di fatto che noi già toccammo una volta l'argomento di un terreno abbastanza difficile da definire, tanto che parlammo di giovanissime modelle, ci furono madri che protestarono, ci furono persone che sono sentite chiamare in causa, che ebbero qualcosa a dire. Sono stato anche la puntata successiva costretto a fare una rettifica, a dire non intendevamo assolutamente parlare di quella con l'altra bambina. Lo ribadisco questa volta in anticipo, non mi faccio riferimento a nessuna persona in particolare, a nessun evento in particolare, però sta di fatto che anche in Italia c'è un fenomeno sul quale forse bisogna fare qualche riflessione, legato a la pretesa, il desiderio, l'ambizione, soprattutto di molte mamme, di molti padri, di lanciare delle bambine in età tenerissima nella rutilante carriera di modelle. Beh, di questo vogliamo parlare anche oggi. Ne parliamo con persona informata dei fatti, ma vi prego, portate le vostre testimonianze, quello che voi sapete, quello che voi pensate, quello che avete fatto per seguire questa stessa strada, che non è certo quella della modella russa morta in Cina, ma quella magari di un fulgido futuro pieno di gloria, pieno di soldi, pieno di bellezza, insomma, pieno di felicità. 800 24 0024. Questi bambini, dipende anche dal brand in cui vengono chiamati, variano dalle 80 euro magari giornaliere alle 150 per 4 ore, quindi 4 ore di lavoro per 150 non sono poche. Eravamo sotto in banca di 700 euro e sono arrivate 1200 euro di Emma, a me mi hanno fatto respirare un paio di giorni, quindi a me servono. È chiaro che chi lo fa, chi avvia una bambina nel mondo difficile, controverso alla moda, da un certo punto di vista lo fa per ambizione, per gratificazione interiore, ma lo fa anche perché ha bisogno di soldi, perché è una risorsa, è una sorta di lavoro minorile che può muovere e cambiare il budget familiare. Queste voci che avete sentito sono tratte da un documentario bellissime, un documentario che ha fatto Flavia Piccinni, che è una scrittrice, giornalista e autrice del libro Bellissime, Un viaggio nel mondo delle Baby Miss, edizioni Fandango, era ospite della nostra precedente trasmissione e ospite anche oggi. Buongiorno Flavia Piccinni. Buongiorno. Allora, qual è il passo avanti fatto rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, che tante mamme si arrabbiarono? Le mamme hanno continuato ad arrabbiarsi e poi è stata fatta un'interrogazione parlamentare dal deputato Nuti, ne è seguita un'altra. Che diceva l'interrogazione parlamentare? Sì, praticamente chiedeva l'invio di ispettori ministeriali sui set per controllare le condizioni in cui i bambini vengono effettivamente trattati, perché nel libro in Bellissime io ho raccontato di sfilate a cui i bambini non era stata data l'acqua, di bambini che venivano tenuti separati dai genitori nonostante la legge italiana lo proibisca. Quando dice bambini, a che età ti riferisci? Dai 3 agli 11 anni, quindi bambini. Quindi diciamo anche noi abbiamo dato un nostro piccolo contributo per avere chiarezza su questo campo. Molti si arrabbiarono, però ha avuto un senso anche la trasmissione che hai fatto con noi. Sì, anche perché poi è addirittura arrivato un DDL che è stato presentato 10 giorni fa in Senato in occasione della giornata mondiale dei diritti delle bambine e delle adolescenti. E quindi il DDL praticamente spinge a tutelare ulteriormente i bambini, riducendo sia l'orario di lavoro, sia il modo in cui i bambini vengono trattati e soprattutto proposti. Quindi in questo caso qualcosa è cambiato rispetto, cioè con un libro, con un documentario, con qualche chiacchiera fatta alla radio, qualcosa sta cambiando o rimane tutto immutato? Bisogna vedere se il DDL proposto dalla senatrice Ani Tori riuscirà a diventare, a concretizzarsi. Sicuramente l'attenzione sta aumentando, tant'è vero che diverse agenzie mi hanno poi chiamato raccontandomi di come anche la percezione e il comportamento dei clienti si stia tramutando. C'è più consapevolezza. Allora, 800 24 0024, avete mai avuto contatti con il mondo della moda e la pubblicità? Vi hanno chiesto di far entrare i vostri bambini in un giro importante, bello, gratificante, o vi hanno detto il vostro bambino è tanto bello, perché non gli fai fare qualche sfilata, qualche foto? Insomma, raccontatemi qualcosa legato a quello di cui stiamo parlando. Quando mi riconosco dico, oddio, ma perché? A volte sono felice perché dico, bene, mi hanno riconosciuto, sono felice. A volte dico, mamma mia, basta riconoscermi, è una volta, due volte, poi basta. Addirittura. Lasciatemi stare. Quanti anni aveva questo bambino, Flavio? Questo bambino, se non ricordo male, 8-9 anni. Sembra già un adulto, dice, mi sono stancato. Sì, vabbè, la celebrità è bella, ma alla fine ti limita. Un bambino molto bello, molto intelligente e soprattutto molto consapevole. Beh, da brutto non lo può fare questo mestiere. Ci sono, come mi ha detto una volta una responsabile di casting, ci sono anche dei bambini che vengono selezionati proprio perché brutti, perché c'è sempre il brand, il marchio, che al di là dei bellissimi seleziona un bambino su 100 brutto. Beh, se non per metti fare il brutto. Un brutto vicino al bellissimo, il bellissimo non rifulge di luce. Ci mettono un po' bruttino vicino, così sembra più bello. Forse sì, è questo? Penso che sia proprio questo, il paragone. Beh, ha la sua funzione. C'è sempre che la spalla, in ogni film, un grande attore, un grande protagonista ha una spalla. Anna, buongiorno. Buongiorno, sono già posso... Ecco, bloccati perché ti sento transeunte nel nostro ascolto. Beh, è morta. Luca. Pronto? Una brevissima vita radiofonica. Luca, sentiamo. Buongiorno a lei, salve. L'ascolto. Senta, io ho avuto modo, tra l'altro, tramite un'amica di mia figlia, la più grande, che ha 6 anni e mezzo, che appunto fa sfilate e quant'altro, figlia di modella, e io mi chiedo sempre questa cosa, perché se si tratta di moda piuttosto che di qualcosa di fashion abbiamo questa difficoltà a chiamarlo lavoro minorile, sfruttamento del lavoro minorile, e dobbiamo creare delle atmosfere per le quali comunque c'è qualcosa di bello per la persona, in questo caso un bambino, senza invece affrontare semplicemente il fatto che si tratta di lavoro minorile, che è vietato, che è regolamentato a livello internazionale, sicuramente europeo e italiano, e che quindi con grande semplicità debba essere vietato. Se ha sentito la mia introduzione, Luca, io ho parlato proprio di lavoro minorile, la frase che ho detto io. Per me è lavoro minorile. Ora, poi che raccogliere le olive e i pomodori sia più faticoso che farsi imbellettare e sfilare una passerella, siamo d'accordo, ma di lavoro si tratta. Sentiamo Flavia Piccini, se sei d'accordo con quello che dice il nostro ascoltatore. È assolutamente lavoro minorile, tanto è vero che viene legittimato da una normativa che prende proprio il nome di lavoro minorile in deroga, perché il mondo dello spettacolo e il mondo dello sport sono appunto in deroga. Tanto è vero che poi il DDL proposto dalla senatrice Nitori interviene su questo sui termini modello, di questa deroga, ecco. Esattamente, riducendo ulteriormente sia gli orari di lavoro che, appunto, come dicevamo prima, introducendo uno psicologo e un medico sempre sui set, riducendo i volumi della musica, riducendo anche la possibilità delle bambine di essere o meno truccate. Anche perché penso la deroga basi sul fatto che siano delle attività ludico-ricreative, lo sport, gratificano il bambino, che non deve essere equiparati a una fatica. Se è una fatica come un lavoro, torniamo nel campo del lavoro. Esattamente così. Purtroppo molto spesso i bambini, almeno secondo quanto mi è stato detto, la vedono come un lavoro, come sentivamo il bambino di prima, mentre le agenzie pubblicitarie, le mamme, i genitori dicono sempre no, ma per il bambino è un gioco. E fra questi due poli si crea questo mondo e si alimenta. Ma la differenza fra lavoro e gioco secondo me è questa. Il gioco è quello che quando ti stufi puoi startene a casa. Il lavoro, per quanto bello e gratificante, è quello che il giorno che non c'è voglia devi farlo lo stesso. Quello è il lavoro. Quello è un lavoro e questi bambini sanno benissimo che nel momento in cui sono stati selezionati per un casting e ne devono andare a fare una pubblicità, devono assolutamente andarci. Non esiste febbre, non esiste non ho voglia, non esiste devo andare dall'amichetta. Piero, buongiorno. Buongiorno, grazie per la telefonata e per l'opportunità. Io di professione faccio fotografo di moda e ho realizzato diverse campagne con dei bambini, con dei minori, piccoli, anche di 4 anni, anche più piccoli, e ho telefonato esclusivamente per fare una considerazione. Coloro che per primi sottopongono i bambini a un lavoro in maniera stressante, e veramente esagerata e forzata, sono i genitori, sono i primi. Sono responsabili al 100%, è chiaro. Non so se lo fanno per denaro o perché c'è una proiezione di se stessi nei loro figli, per cui devono... Ma lei che impressione ha avuto, Piero? Ne aveva visti tanti nel suo lavoro. Che impressione ha avuto? Io ho visto entrambe le cose. Purtroppo quando c'è un problema di denaro, posso dire poco, è triste forse. Quando invece vedo delle mamme che dicono anch'io facevo la modella eccetera, poi quasi costringo la bambina a farlo, perché un bimbo non è solo una questione di ore, un bimbo quando dice basta basta, può essere dopo 10 minuti che lavora, dopo 2 ore, però quando non ne ha voglia non ne ha voglia, non puoi costringerlo come un adulto. Invece i genitori sono i primi a voler costringere i bambini a fare queste cose, per cui mi piacerebbe che questa trasmissione fosse rivolta forse più ai genitori che non agli operatori stessi, che credo comunque... Ma è rivolta ai genitori, infatti la domanda che ho fatto è dire se avete qualche esperienza, qualche diretta partecipazione, raccontatelo. Flavia Piccini, sei d'accordo che il problema, l'ambito in cui ci si muove è quello dei genitori, è chiaro. L'ambito in cui ci si muove, sì, è quello dei genitori e anche quello naturalmente degli operatori di settore che in qualche modo alimentano o indirizzano i desideri stessi dei genitori. Nella fattispecie io durante quest'inchiesta, questo libro, ho incontrato decine e decine di mamme e di papà e ho riscontrato molto spesso quello che diceva l'ascoltatore. Quindi genitori che sono disposti a tutto pur di far arrivare la loro bambina, pur di far arrivare il loro figlio. Per esempio l'anno scorso, nella più importante manifestazione del settore che si chiama Pitti, a un certo punto passeggiando nei corridoi ho sentito più e più, più volte mamme dire a degli stendisti: questo è il mio biglietto da visita, questo qui è il mio numero, chiami pure mia figlia, noi siamo sempre disponibili. Siamo disponibili anche a fare fotografie, scatti, servizi fotografici gratuitamente. E lì entra in gioco qualcosa che è l'apparenza, qualcosa che mia figlia viene fotografata, mia figlia viene riprodotta, mia figlia esiste. Vabbè, fanno gli agenti dei figli, come farebbe un agente, un po' ti concedi e un po' chiedi soldi. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo dire in merito a quello che ha detto il fotografo, che sono anche gli stessi fotografi o chi organizza questi incontri dove i genitori magari sono spinti a portare la bambina, a fargli fare delle foto, che non sono, cioè invogliano a fare questo tipo di discorso, ma poi quello che propongono è sempre molto lontano dalla verità. Tant'è vero che anche l'ambiente dove fanno le foto non è che sia proprio una bomboniera di igiene. E questo secondo me la dice lunga di quello che c'è dietro a questo mercato. Cioè lei quanto hanno chiesto? Al di là del prezzo mi sembra 20-25 euro per fare le foto, ma proprio l'ambiente 25 stesso. Euro non mi sembra una grande cifra, onestamente poco più che passaggi in una macchinetta quelle davanti alle poste. Sì, ma infatti forse nella macchinetta è più igienico. Non è le 25 euro, tant'è vero che... Un fotografo ti offre un book per 25 euro, io già sospetterei, perché è il 10% di un prezzo, diciamo, onesto. Infatti è quello che sto proprio dicendo, nel senso che chissà cosa c'è dietro a questi servizi, questi book. Tant'è vero che siamo venuti via proprio perché la cosa mi ha un po' urtato e insospettito. Flavia, su questa cosa, a me sembra, uno ti offre foto per 25 euro mi sembra un po' strano, sinceramente. Devo dire la verità, sì, appunto quando lui adesso ha detto insospettito, vuol dire che forse c'è dietro qualcosa di diverso, sì. Perché normalmente i book fotografici vanno dai 500 ai 1000 euro, non di meno. Mi sembra un po' poco, dico. Non l'ho mai sentito. Un prezzo stracciato, 300 euro, mi sembra già pochissimo, mi sembra, capito? Va bene, fermiamoci un istante, 800 24 00 24, sono già molte telefonate, quindi lentamente i nostri ascoltatori si stanno sensibilizzando e stanno portando, come ogni mattina, il loro contributo a costruire un'immagine plausibile, fatta di esperienze personali, di una domanda che noi abbiamo fatto, sulla quale avevamo molti dubbi, devo dire. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da La Trapp, le autentiche birre dei frati trappisti. Assapora il silenzio. Melog. Una cosa che mi piace di sfilare è che quando sei sul set puoi raccontare come ti senti alle tue amiche e poi quando sfili sei libera. Invece una cosa che non mi piace è quando mi danno i vestiti che mi danno fastidio con le paillette che si sentono. Lo faccio perché è un lavoro, secondo me, bello. Una bimba a cui dà fastidio mettersi il vestito con le paillette, certo che è un problema. Che sono voci bambine tratte dal documentario bellissime, un viaggio nel mondo del Baby Miss, girato da Flavia Piccini, che abbiamo in studio, che è l'autrice di un'inchiesta ormai dura da tanto tempo nel mondo della moda minorile, che le ha dato anche fastidi ma anche gratificazioni. Da questo suo lavoro sono venute fuori interrogazioni parlamentari e forse un DDL che in qualche maniera regolamenta quello che a tutti gli effetti è lavoro minorile, anche se alcune categorie come lo spettacolo e lo sport sono in deroga, ma in questo caso si tratta di lavoro, non è che vanno lì poi soltanto per divertirsi. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. L'ascolto. Allora, niente, io posso portare la mia piccola partecipazione, nel senso che io ho partecipato, mia moglie ha insistito per partecipare. Ha capito, Marco, che questa mattina chiamano solo i padri, le madri stanno zitte, stanno chiamando solo padri. No, volevo le madri... riflette con lei di questo fatto. Non si può discutere con le mamme. Niente, comunque ho partecipato, mi hanno chiesto la cifra modesta, diciamo. Quant'è la cifra? Così capiamo. Perché... Guarda, tutti e due mi sembra 450 per fare il booking a tutti e due. Che è la base, diciamo. Dopo sei mesi me l'hanno rinnovato gratuitamente, per cui non è che non hanno fatto. Perché ha cresciuto il bambino, era un'altra persona dopo sei mesi forse. No. Beh, comunque, fatto sta che poi comunque adesso recentemente mi hanno chiamato per fare una pubblicità per il bambino, ecco. Ma quello che volevo dire io... Sì, ma come ci è arrivato, Marco? Volevo capire l'iter. Come è arrivato lei a portare suo figlio? Ecco, chi è stata l'istigatore di questa cosa? È stata mia moglie che tramite, forse internet, penso... Ecco, dov'è cercato... il primo aggancio? Lui si trova, danno volantini alle scuole, si legge sui giornali femminili, lo dicono le amiche... Tramite internet. Mia moglie aveva questa passione, diciamo, di farsi... di portare i bambini. Per fargli fare le pubblicità. Ma sua moglie ha fatto la modella? No, non ho fatto la maestra, mia moglie. Per cui... Vabbè, maestra, che anche le maestre possono avere un, sì. Un aspetto. Comunque, da modella. La cosa, secondo me, importante è che il business non sta nel fatto che l'1% di questi bambini venga scelto, ma sta nel booking fotografico, secondo il mio modesto parere. Perché se vanno 1000 persone a 200 euro... Cosa vuole? Quello è chiaro, chi fa i book ha tutto l'interesse a farne più possibile. Che ecco, sì. Certo che comunque non è che ti obbligano, perché se di solito per quanto riguarda sei tu che vai a cercare loro. Sì, ma ti esagerano sul fatto che il tuo scarafone sia passabile, quindi ti fanno le foto comunque. Ecco, questo. Sì, quello probabilmente. Però comunque, ma ha lavorato alla fine? Suo figlio ha lavorato? Ha portato a casa qualcosa? No. No, mia moglie non lo fa neanche per i soldi, lo fa proprio perché gli piace. Ma comunque qualcosa fa... il bambino che fa la pubblicità, ecco. Ma alla fine c'è riuscita, cosa ha fatto? Niente. Alla fine sì, c'è riuscita, adesso andremo fra un po' a fare una pubblicità. Di cosa? Che non voglio sapere la marca, ma che tipo di prodotto? realtà praticamente è un prodotto per dei viaggi, insomma, una cosa. Ah, beh, solo se viaggi. Sì, qua... non sfilate. E quanto porta a casa per questa cosa, guardi, più o meno? Sono 100 euro lordi. 100 euro lordi, scusi. Per cui puoi ci mangiate la pizza. Viaggio da qui a Milano. Però è tutto pagato, li portano al posto, gli danno da mangiare, gli danno tutto. E poi vi danno 100 euro lordi in mano. 100 euro lordi. Cioè vi fanno una fattura, lei deve fatturare 100 euro per pagarci le tasse, giustamente. Sì, sì. Fa. Quindi rimarranno 60-70 euro. Sì, penso. Che poi andranno sul conticino del bambino, ma tanto... sai, ma se si pensa solamente a quando... Ci sfanno una ritanica per una settimana del telefonino con 70 euro. Va bene, Marco. Okay. Flavia Piccini. Allora, è vero quello che dice questo ascoltatore, che in realtà il pre-business è già prenderne tanti, illuderli, fargli le foto? In realtà ci sono diversi tipi di agenzie, secondo quello la mia esperienza. Ci sono le agenzie serie o comunque le agenzie più popolari che non difficilmente propongono dei book fotografici a pagamento. E poi invece ci sono altri tipi di agenzie che propongono uno sbarramento che non è una quota di iscrizione, ma è un book fotografico fatto da, appunto, da un fotografo interno. I prezzi del book comunque mi pare che siano appunto dai 500 ai 1000 euro, mentre molte agenzie fanno pagare semplicemente una quota di iscrizione che si aggira dai 30 ai 70 euro annuali. Sì, ma il book non è che ti assicura poi un lavoro, ce l'hai, lo fanno circolare in certi circuiti oppure no? Ma da quello che io ho potuto vedere, il book solitamente sì, può essere utile quando un bambino entra in un'agenzia e non ha una visibilità, quindi non ha fatto altri lavori, però ha una necessità abbastanza relativa, anche perché, come dicevi prima, i bambini crescono molto rapidamente. Diventa un'altra persona, figuriamoci, vale quanto l'album delle foto della prima comunione, ti fai vedere alle nonne e le zie, non ci fai niente, però alcuni ci fanno qualcosa perché appunto ci lucrano. Vabbè, ci andranno in giro, che ne so. Maurizio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. L'ascolto. Volevo concordare con il signore che ha chiamato prima e sul discorso generale che sono più le mamme ad insistere affinché i loro figli vengano visti. Poi Maurizio, lo sa che questa mattina ancora non c'ho una mamma al telefono, mi piacerebbe parlare con qualche mamma. Chiamano solo i padri e gli addetti ai lavori. Trovo singolarissimo. Chiamerà una mamma che non è d'accordo con far vedere i figli, ma volevo portare una testimonianza. Io sono un operatore del settore, una casa di produzione, sto parlando però di un episodio. Ma lei cosa fa? Produce, fa casting, produce spot? No, produco spot e mi rivolgo a dei casting quando c'è bisogno di... Vabbè, questo fa il suo mestiere, non c'è nulla di strano, certo. No, ma infatti, sto parlando di un episodio avvenuto però 30 anni fa, anche con delle normative diverse, una pubblicità di pannolini per il mercato, o meglio, più di una pubblicità, perché era un periodo che ne avevo... molte di pannolini per il mercato francese e i bambini venivano messi per la comparazione con pannolini della concorrenza su un foglio di plexiglass illuminato sia da sopra che da sotto, quindi con luci tra l'altro. Una specie di radiografia gli facevano? Una specie, erano abbastanza illuminati perché la pellicola era molto sensibile. Stavano diciamo al caldo. E come metterli nel lettino abbronzante? Non era proprio una griglia, ma insomma stavano... Sono lampade che scaldano, poi se mi parla di 20 anni fa ancora 30, di più. 30, figuriamoci, 30 anni fa manco esistevano i LED. Esatto. E, quindi scottava e proprio. Poi erano neonati, quando avevamo una decina. Ma piangevano i bambini, si lamentavano? Esatto, quando i bambini piangevano le mamme insistevano per tenerli e cercavano di calmarli. E come li calmavano? Con carezza, dicevano aspettiamo un attimo, ma pur di... Non è che gli davano il Valium come fanno quelle che li portano per le metropolitane? Questo non lo so. Domanda. Ma non lo so, no, io non lo sicuramente... I bambini sedati delle mendicanti si vedono, e non è un mistero, e non dico nulla di scandaloso, è chiaro, bambini sempre addormentati che sembrano morti, sì. Qualcosa gli hanno dato, gli daranno il Rolp, non so cosa gli diano. Noi ne avevamo una decina proprio per alternarli, per non tenerli al caldo, eppure erano le mamme che insistevano per tenerli là. Sentiamo Mariuccia, Mariuccia, oh, finalmente chiama una donna. Mariuccia, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono una nonna, mia nipotina all'età di 6 anni è stata vista da un fotografo sul computer della zia, che è una dirigente di una grossa ditta. E nella grossa ditta, no, scusi, delle pose da diva. Aspetti, Mariuccia, poi Mariuccia, l'hanno chiamata per non un mi sente. Casting. Mariuccia! Sì? Mi sente? Quanti anni ha lei, Mariuccia, scusi? Ah, io 80, sono 80 anni. Vecchia. Ah, beh, vecchia. Sì, 80 anni. Appartengo alla generazione anteguerra. Vabbè, lei parla di sua figlia o di sua nipote in questo caso? No, parlo di mia nipote. È sua nipote, aveva un computer dove c'era la foto della figlia. No, la zia di mia nipote aveva un computer dove c'era le foto di questa bambina. Nel posto di lavoro. E teneva... Erano belle. E l'ha vista il fotografo che faceva il catalogo dei prodotti per cui la zia lavorava e ha voluto a tutti i costi fotografare la bambina nelle pose, diciamo, da modella. Questa bambina è andata a fare un casting, dopo 2 ore che stava aspettando c'erano tutte queste modelline che parlavano di qui di là, ha detto alla mamma: mamma, andiamo via, mia figlia ha preso la figlia e l'ha portata via. Dopodiché una grossa industria italiana l'ha chiamata per fare la pubblicità, a che mia figlia ha detto: basta, chiuso incidente, non perdiamo tempo in due, perché io non voglio mandare mia figlia a destra e a sinistra. Finita. Una grande lezione della bambina alle tre generazioni che l'hanno preceduta, però devo dire, già la mamma tenne le foto nel suo computer, l'ha fatto vedere comunque al fotografo che faceva il catalogo delle cose che vendeva il suo ufficio. Se l'hanno richiamata queste foto in qualche maniera gliela l'aveva fatta girare, quindi alla fine la madre è rimasta bloccata nel suo sogno di gloria, quando in realtà per lei poteva anche proseguire. Ci fermiamo un istante. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta. Melog. Un bambino deve essere bello, deve saper camminare, deve essere magro, deve essere simpatico, accattivante. Oggi come oggi l'immagine del bambino è visto molto anche sui social. Mi è arrivata una notizia che ci sono campagne importanti dove chiedono bambini che hanno like, follower a livello, per cui adesso è verso i social. .800240024, mi correggono, era la zia, non la madre, che per prima aveva fatto vedere le foto al fotografo sul computer. Sì, però al casting e poi ce l'ha accompagnata la madre. Comunque mi cambia poco, non mi cambia nulla. Stiamo parlando di modelle bambine, ne parliamo con Flavia Piccinni, che ha scritto un libro bellissimo, che ha fatto un documentario dallo stesso titolo su questo problema. Antonio? Pronto? Eccomi. Sì, eccomi. L'ascolto. Volevo dire diciamo la mia testimonianza. Innanzitutto sono più io che mia moglie che, diciamo, ho forzato su questa cosa. Ma cosa la spingeva, Antonio? Cosa la spingeva a mandare la creatura a fare la modella? Quanti anni ha la bambina? No, innanzitutto non creatura, le mie figlie sono gemelle, hanno 17 anni e, diciamo, la loro naturale bellezza mi ha spinto, l'altezza, hanno un fisico e quindi mi ha spinto questa cosa. Ma lei aveva 17 anni quando ha deciso di avviarle alla professione? No, adesso hanno 17 anni e io qualche anno, 15-16 anni che ho provato a fare questa cosa, ma non trovo una persona seria, un'agenzia seria, sia nella mia zona sia mi sono pure spostato, al punto che mi sono tirato indietro. Era proprio deciso, lei voleva proprio farle diventare delle modelle, queste ragazzine. Sì, perché secondo me non tanto modelle, ma fotomodelle, per il fisico, per il viso. Però non è un fatto che sono chiaramente di parte delle mie figlie, ma io quello che volevo dire anche è che quando siamo andati a fare, abbiamo fatto una sfilata in zona, era Miss Vesuvio, ci stavano delle ragazze escluse, molto belle, 15-16 anni, facevano delle prove. E perché le avevano escluse quelle lì? È perché avevano escluse, perché non facevano parte di associazioni, di il solito magna, era tutto un giro. Capito? E quindi, ma lei invece ha litigato per imporre le sue figlie, dice anche le mie figlie? No, io non ho litigato, mi sono tirato solo indietro, se è una cosa che deve succedere, succede, se no... Ma quanti anni avevano quando l'ha proposta come Miss Vesuvio? 16 anni. Ma in coppia, non, cioè una monade o no, separate? No, una sì e l'altra no, l'altra non vuole proprio, l'altra si è lasciata trascinare da me. Però era bello averle perché sono gemelle, era un posto, un punto in più, no? Due uguali. Era un punto in più perché è l'unicità della cosa, io su quello puntavo. Era una singolarità, dico, due uguali, pensi un po', poteva fare... Le dico, a parte, mi scusi se la interrompo, a parte le mie figlie, diciamo, delle ragazzine... Scusi, Madara, ma nemmeno due al prezzo di uno li prendevano, visto che... No. No. E quindi mi è rimasta impressa questa cosa. E, le ripeto, io faccio sempre il giro per cercare di trovare qualche agenzia seria, poi vado chiaramente sempre solo io a parlare prima, mi informo. E la moglie in tutto questo che parte ha? Niente. Decide cosa? La moglie, sua moglie, è tutto questo. Mia moglie è leggermente distaccata, però poi quando riesco a fissare un appuntamento per coinvolgere tutta la famiglia... Viene anche lei. Gli fa fare il lavoro sporco, poi si accoda, esatto, anche lei. Però io mi vado a vedere, addirittura una volta nella mia zona qua, giù in uno scantinato, facevano delle prove, io sono andato da solo, senza le ragazze. Nello scantinato è meglio aspettare. Ho detto no, io qua non vengo. No, ma vado da solo pure quando è un'agenzia, diciamo, quando è una cosa più ad alto livello. Senta, diciamo, ma le ragazze fra un po' saranno maggiorenni, poi decideranno loro. Diciamo che loro tendenzialmente sono per il no. Ho forzato molto io su questa cosa. Fra un anno, quando compieranno i 18 anni, invece che chiederle la macchina, le chiederanno: papà, basta con le modelle. Vogliamo, una vorrà fare lo scienziato nucleare, l'altra vorrà fare l'ingegnere, probabilmente. Vabbè, Dario, buona giornata. Antonio, parlato Dario, allora. Dario. Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno, ascolti, mia figlia fa questo lavoro praticamente, lo chiamo lavoro perché è in realtà un lavoro vero, e lo fa da 4 anni, mia figlia ha 7 anni. Quindi ha cominciato da 3 anni? Ha cominciato a 3 anni. Quindi è un lavoro, non è un'attività ludica, è proprio un lavoro? No, è proprio un lavoro. Allora, ci sono... La sua figlia vive da sola, si è autonomizzata o porta i soldi a casa? No, è domanda... Diciamo che dipende un po' dal lavoro che viene fatto, quanto si incassa. E quanto aiuta? Per capire quanto contribuisce al menage familiare una bambina di 5, 6, 7 anni che fa questo lavoro? Poco inizialmente. Adesso, diciamo, dopo 4 anni che lo fa, diciamo che cominciamo a ragionare. Lei, ma esatto. Si può sapere più o meno indicativamente che cifra al netto? Dipende dalle aziende. Vabbè, avrà fatto un conto sull'anno, diciamo. Ma su un anno si sta comunque sotto ai 3.000 euro. Sotto. 3.000 euro all'anno? Sì, sì. Lavorando, le dico, una volta o due volte al mese. Cioè le agenzie pagano. Allora, quello che viene pagato di meno in assoluto sono i giornali, che lì sono sugli 80 euro lordi. Vabbè, praticamente si va gratis per andare. Dopo ci sono aziende che pagano 200-300 euro al giorno in base a... Vabbè, 3.000 euro all'anno, su cui deve anche pagarci poi le tasse, non mi sembra che poi sia una sì, cifra... Sì, non sono cifre da guadagnare. Cioè è sulla rimessa, considerato che lei comunque deve accompagnarla, portarla, sì, comperazione, sì, sì. È alla rimessa. Allora, Flavia Piccini, concludite. Esattamente. Ti sembra che questo budget fatto dal padre sia plausibile? Poi... Io sono ancora stupito, non ha chiamato nemmeno una madre. Si sono scatenate l'altra volta, questa volta hanno... Ma le figure dei padri tu le avevi considerate? Sì, però i padri rimangono molto spesso in secondo piano. Però non mi pare oggi, anzi, sono il motore sono protagonisti, sì. Invece io ho parlato con tante mamme, con decine e decine di mamme. E mai con un papà? Con pochissimi papà, tranne per esempio una volta sempre a Pitti intervistai questo papà in un backstage e gli domandai: ma quando suo figlio smetterà di fare questo lavoro, che cosa succederà? Ma in questo caso perdono 3.000 euro lordi all'anno, non mi pare sia una cifra che svolta il menage. Però lui fu preoccupatissimo, mi guardò e mi disse: ma no, non è possibile. E il figlio: no papà, non ti preoccupare, io da grande farò il calciatore e il modello. Noi questo mondo continueremo a tenerlo con noi. Ah beh, è importante averci delle certezze in un mondo in cui nessuna certezza, almeno i piccoli divi della passerella hanno questa certezza. Per loro durerà per sempre. Auguri, alla prossima.